Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un carissimo saluto dalla comunità dei Paolini di Cinisello Balsamo, da dove continuiamo questo nostro percorso sulla parola di Dio. Dopo aver fatto per alcuni anni la lettura continua del Vangelo di Marco, stiamo facendo da alcuni anni la lettura continua degli Atti degli Apostoli, ritrovandoci per condividere la parola di Dio. Come sapete, la nostra puntata si svolge sempre in due momenti. I primi tre quarti d'ora cerco io di spezzare la parola per ciascuno di voi, cercando di condividere quello che il Signore ha ispirato, gli studi hanno evidenziato, quello insomma che la parola custodisce dentro di sé, cercando il più possibile di renderla viva per quello che è, senza sfuocarne la forza. Nella seconda parte invece i protagonisti siete un pochino voi, con le vostre testimonianze, le vostre domande, le vostre sottolineature, alle quali cercherò di dare ora una risposta, ora un feedback, ora un approfondimento in base a quello che di volta in volta viene da voi evidenziato. Ecco, in ogni puntata in genere dedico la trasmissione a una categoria di persone per le quali anche desidero unire voi ascoltatori in una sola preghiera per loro. Ecco, questa sera la categoria delle persone a cui vorrei dedicare la parola, chiedendo al Signore che questa parola sia davvero la lampada che guida i loro passi, è la categoria delle coppie, soprattutto le coppie di giovani sposi. Ho nella mia mente ancora i sorrisi, la commozione, anche un po' la tensione di un matrimonio che ho celebrato ieri, quello di Emanuele e Giusi, e questa sera, ecco, li voglio affidare al vostro cuore, alle vostre preghiere, insieme a tutti quegli sposi che negli ultimi 7 giorni si sono affidati alle mani del Signore e hanno iniziato insieme al Signore questa loro avventura con tanto entusiasmo, ma anche tanta fiducia, con questa promessa di lasciarsi guidare dalla parola del Signore. E allora, insieme, ecco, li affidiamo alla forza della parola, che è sempre lampada ai passi dell'uomo. E su questo sfondo continuiamo il nostro percorso narrativo. Siamo arrivati al capitolo 20 degli Atti degli Apostoli, dopo un momento molto delicato vissuto dall'Apostolo Paolo. La volta scorsa abbiamo visto come nella città di Efeso Paolo vive un momento bello, da un lato di confronto con una comunità che nasce dalla forza del Vangelo e dall'altro anche un momento molto difficile nel confronto con l'idolatria, i suoi mercanti, i suoi guadagni, che ovviamente il Vangelo mette un pochino in crisi. Quindi Paolo, dopo un momento molto delicato, dopo un tumulto particolarmente pericoloso per la sua vita, è costretto a lasciare la città di Efeso. Il narratore Luca, che ha vissuto insieme a Paolo tutte queste vicende, ci mostra come il percorso di Paolo si muove verso una direzione precisa, però a un certo punto lo Spirito interviene ancora a sconvolgere i suoi piani. Ecco, i versetti a cui ci dedicheremo questa sera, lo dico per coloro che hanno la possibilità di prendere un testo tra le mani, quindi chi ha la possibilità di farlo, lo invito a prendere un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento tra le mani. Il capitolo che approfondiremo questa sera, il capitolo 20, i primi 16 versetti, sono praticamente i versetti che portano Paolo da Efeso a Mileto, dove ci sarà il saluto ai responsabili della comunità, che vedremo però la prossima volta. Questi 16 versetti li distribuiremo in 3 momenti diversi, cercando di volta in volta, dopo aver letto il testo, di fare alcune sottolineature che possono essere utili alla nostra vita. Ci sarà poi un altro aspetto che vorrei insieme a voi sottolineare in questa nostra trasmissione. stiamo vivendo in un mese particolarmente delicato, e una puntata come la nostra non può non ricordarlo. È il mese della parola di Dio. Il mese di settembre in diverse parti del mondo è davvero il mese della parola, dove ci sono tantissime iniziative, alcune caratterizzate da tanta profondità, da tanti sforzi, da tanta creatività. E l'obiettivo è quello di trasformare le comunità in un grembo accogliente, in cui la parola possa ancora cadere con la sua luminosità, la sua luce, la sua fecondità. Penso ad esempio alle iniziative che ci sono in America Latina, penso ad esempio ai miei confratelli in Brasile che dedicano questo mese a tantissimi corsi sulla parola di Dio, penso alle Filippine dove c'è persino un quiz nazionale che coinvolge l'intera nazione, che sensibilizza le fasce più giovani alla lettura della parola di Dio. Ma penso anche ad altre iniziative molto più semplici che vanno a raggiungere anche alcuni luoghi di povertà. In alcune carceri italiane, penso ad esempio alla casa circondariale di Gela che ha visto coinvolti anche noi con una piccola collaborazione, vengono fatti dei percorsi sulla parola di Dio da alcuni gruppi che svolgono questo servizio con tanta passione. Oltre ad essere il mese della parola di Dio, in molte realtà italiane, vedremo nella seconda parte della nostra trasmissione, sarà celebrata presto la Domenica della Parola. Alcune diocesi la celebreranno e alcune comunità cristiane la celebreranno il 24 settembre, altre realtà il 1 ottobre, ma torneremo su questi aspetti. Cominciamo quindi subito a leggere il testo degli Atti degli Apostoli, incominciando dai primi sei versetti del capitolo 20. Cessato il tumulto, Paolo mandò a chiamare i discepoli e dopo averli esortati li salutò e si mise in viaggio per la Macedonia. Dopo aver attraversato quelle regioni, esortando i discepoli con molti discorsi, arrivò in Grecia. Trascorsi tre mesi, poiché ci fu un complotto dei giudei contro di lui mentre si apprestava a salpare per la Siria, decise di fare il ritorno attraverso la Macedonia. Lo accompagnavano Sopatro di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo, e gli asiatici Tichico e Trofimo. Questi però, partiti prima di noi, ci attendevano a Troade. Noi invece salpammo da Filippi dopo i giorni degli azimi e li raggiungemmo in capo a cinque giorni a Troade, dove ci trattenemmo sette giorni. Ascoltando questi versetti può venire spontaneo ad alcuno di noi dire, ma insomma da questi versetti cosa si può trarre per noi? Sembra essere un semplice resoconto di cronaca che ci descrive l'itinerario di Paolo. Ma dietro questo resoconto di cronaca c'è qualcosa di più e c'è qualcosa di significativo. Allora, ci è stato detto che Paolo è a Efeso. Da Efeso Paolo vuole andare a Gerusalemme, siamo alla fine praticamente del terzo viaggio missionario, il viaggio che ha toccato a livello di circonferenza per adesso la circonferenza più ampia, cioè che si è spostato di più verso l'occidente dell'impero romano. Paolo vuole andare ancora molto più in là, vuole raggiungere la Spagna, però per il momento questo non è ancora stato possibile. Deve tornare a Gerusalemme, si trova a Efeso. Quello che è più semplice da Efeso a Gerusalemme è di tornare semplicemente a sud, di scendere dall'Asia e di procedere verso la Galilea, la Giudea, arrivare a Gerusalemme. Paolo invece no, fa un giro più largo, si sposta verso ovest, quindi va in Macedonia, dalla Macedonia scende verso la Grecia con un obiettivo, poi da lì via mare tornare nella zona della Siria, Galilea, Giudea. Questo è il suo disegno. Come mai Paolo allunga la strada? come mai Paolo percorre così tanti chilometri? Non si tratta di 10, di 20, di 30 chilometri, sono giornate e giornate di cammino. Perché Paolo allunga? Tra l'altro, in comunità in cui lo vedremo, non è che si ferma a lungo, passa, si ferma un po' di tempo, alcuni mesi in alcune città, in altre solo poche settimane e poi continua. Perché? Perché Paolo, una caratteristica dell'apostolo, di colui che porta la parola, è quello non solo di seminare, ma di coltivare il seme che è stato gettato. Quindi Paolo emerge sempre più e più gli anni vanno avanti, più questo lo si riscontra nell'apostolo, emerge sempre più come il padre delle sue comunità. E quindi l'obiettivo di questi viaggi è quello di sostenere la fede che è stata seminata nel cuore dei credenti. Cioè non basta annunciare il Vangelo, bisogna formare i cuori ad accogliere questo Vangelo. Paolo soprattutto ha una preoccupazione di fondo, far sì che la fede dei credenti non si trasformi in uno sforzo e in un impegno della persona verso la santità. E forse in alcuni di voi può nascere la domanda di dire cosa che Paolo non vuole lo sforzo e l'impegno alla santità. Attenzione, Paolo non vuole che l'adesione di fede si trasformi in uno sforzo e in un impegno soggettivo, dove il soggetto è l'io verso la santità. Paolo desidera che il cammino di conformazione a Cristo, che il cammino di fede nasca prima di tutto dall'esperienza dell'amore e della misericordia di Dio. Sia un'esperienza che permette al Cristo di abitare nelle comunità e poi di vivere dentro i discepoli del Signore, in modo da trasformare la fede non nell'impegno dell'uomo, ma nell'accoglienza di un Cristo che trasfigura la vita dell'uomo e parla attraverso le sue parole, i suoi gesti, i suoi pensieri. L'approccio non è quello dell'io che deve raggiungere un obiettivo, questo era l'approccio, se volete, della legge, ma è di un io che si pone in atteggiamento accogliente, lasciandosi bagnare, fecondare, abbracciare, trasfigurare dalla forza della parola che accoglie. Quindi il suo obiettivo è scendere in Macedonia, dalla Macedonia scendere in Grecia, poi da lì prendere la nave, andare in Siria e scendere a Gerusalemme, con un obiettivo ben preciso. L'obiettivo è quello di formare ulteriormente la comunità. Ecco, che questo sia un pochino il disegno di Paolo, tra l'altro è confermato anche dalle sue lettere. Se voi leggete la lettera ai Corinzi, che Paolo scrive a Efeso prima di questo viaggio, notiamo che Paolo annuncia il viaggio che deve fare e lo dice proprio al capitolo 16, nei versetti 1-6. Leggiamo il testo, 1 Corinzi 16-1-6. Paolo dice: riguardo alla colletta in favore dei santi, fate anche voi, cioè scrive ai Corinti, come ho ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò. Cioè Paolo in questo viaggio sta raccogliendo dei fondi per aiutare Gerusalemme dove imperversa la carestia e anche per portare a Gerusalemme un segno concreto della comunione delle sue comunità con la Chiesa Madre di Gerusalemme. Quindi prima di partire da Efeso scrive a Corinto dove vuole andare dicendo: preparate già questa cosa, in modo che quando vengo non devo fare la colletta io, ma sia già stata fatta questa raccolta e ci dedichiamo invece alla formazione delle chiese. Quando arriverò, quelli che avete scelto li manderò io con una mia lettera per portare il dono della vostra generosità a Gerusalemme. E se converrà che vada anch'io, essi verranno con me. Cioè Paolo quando parte da Efeso ha proprio l'obiettivo di formare le comunità, deve arrivare a Gerusalemme, però probabilmente a livello di tempistica non sa quanto tempo gli chiederà la formazione della comunità, quindi se necessario manda con la colletta alcuni della comunità, se questa è già pronta, e lui li raggiungerà dopo. Poi dice, verrò da voi, cioè arriverò a Corinto, dopo aver attraversato la Macedonia, perché la Macedonia intendo solo attraversarla, ma forse mi fermerò da voi o anche passerò l'inverno. Perché prepariate il necessario per dove andrò. Allora, è interessante questa considerazione di Paolo, perché Paolo fa capire il viaggio che vuole fare, Macedonia, Corinto, cosa che è confermata dagli Atti degli Apostoli. Annuncia che vuole andare a Gerusalemme, ma dice già che è in preparazione un altro viaggio. Qual è l'altro viaggio che Paolo ha in mente? L'altro viaggio che Paolo ha in mente è il viaggio a Roma e passando per Roma, dove passerà, non vuole fermarsi a Roma, ma la sua idea è una volta arrivato a Gerusalemme, parto per Roma e poi la mia direzione è la Spagna, cioè arrivare fino agli estremi confini dell'impero. Questi sono i disegni di Paolo. Tanto vero che è arrivato a Corinto, scriverà la lettera ai Romani dicendo di preparargli, di aiutarlo a preparare il viaggio per la Spagna, senza ancora pensare quello che gli succederà. Cioè, Paolo minimamente non sospetta che lo Spirito Santo ha in preparazione per lui altri disegni. Allora, cosa emerge anche da queste righe? Se noi leggiamo gli Atti degli Apostoli insieme alle lettere di Paolo, emerge non solo l'attenzione pastorale dell'Apostolo, ma emerge anche la prospettiva che lui ha nel cuore. Paolo non si accontenta che il Vangelo sia stato seminato in una circonferenza, possiamo dire, così ristretta. Vuole che il Vangelo tocchi tutti i punti dell'impero romano. Non basta arrivare, dalla Giudea fino alla Macedonia o fino alla Grecia. Occorre andare a Roma, occorre andare in Spagna, cioè al punto più occidentale dell'impero romano. Questo è l'obiettivo di Paolo, arrivare fino a lì. Il problema però qual è? Il problema è che le cose non andranno come Paolo si aspetta. E il versetto 3 ce l'ha annunciato perché dice, trascorsi 3 mesi, quando Paolo arriva praticamente in Grecia, a Corinto, trascorsi 3 mesi. Perché 3 mesi? Perché Paolo si ferma, come aveva annunciato, per l'inverno. Durante l'inverno non erano possibili le navigazioni. Quindi Paolo attende il passaggio dell'inverno a Corinto in modo da potersi imbarcare, andare in Siria a Gerusalemme e da Gerusalemme poi imbarcarsi verso l'estremo occidente. Quindi si ferma quei 3 mesi, i mesi invernali, dove la navigazione era impedita. Trascorsi 3 mesi, però ci fu un complotto dei giudei contro di lui, mentre si apprestava a salpare per la Siria. E allora Paolo è costretto a cambiare progetti. Un complotto che si rivelerà essere un complotto molto grave, molto pericoloso. Nella seconda corrispondenza ai Corinzi, nella seconda lettera ai Corinzi, dirà che ha rischiato la vita. Quindi Paolo a un certo punto vede stendersi su di sé l'ombra della croce ed è costretto a cambiare i piani. Decide di abbandonare l'idea della navigazione, decide di abbandonare anche Corinto. Ora non sappiamo nel dettaglio cosa veramente sia successo a Paolo. Sta di fatto che qualcosa mette a rischio la sua vita. Non riusciamo neanche a capire come Paolo, volendo fare il viaggio di ritorno a piedi, non passi più per Efeso. Addirittura, quando si tratta di parlare agli anziani della città, li fa venire a Mileto. E ora, Mileto non è che fosse dietro l'angolo per gli abitanti di Efeso. Mileto è 70 chilometri da Efeso. Quindi il fatto che lui mandi a chiamare delle persone di là, queste persone devono venire da lui, comunque fa passare delle giornate di tempo tra una cosa e l'altra. Per perché le distanze non sono poche e Paolo vuole tenersi lontano da Efeso. Questo ha fatto ipotizzare ad alcuni studiosi che forse questa ombra di persecuzione che Paolo vive su di sé venga proprio dall'ultima esperienza missionaria che lui ha fatto. Probabilmente qualcuno a Efeso sta vedendo dove Paolo si muove per farlo fuori, perché ha creato troppo danno in quella città e rischia di crearne in altre città. Un altro elemento che possiamo attingere da questi sei versetti è l'elenco di coloro che lo accompagnano. Interessante, Paolo sempre più nel suo ministero non lavora da solo, sempre più si fa accompagnare e in questo caso quelli che lo accompagnano sono sette fratelli. Alcuni dicono, vedi, Paolo si sta dirigendo a Gerusalemme verso la chiesa madre e Luca dice che sette lo accompagnano, sette persone. Luca non è uno che usa i numeri così con banalità. Luca usa i numeri giocando a volte sul simbolismo. Quindi la visita di Paolo a Gerusalemme prima di arrivare a Roma è come colui che non porta solo la colletta, ma porta anche il mondo pagano a Gerusalemme, mostrando i miracoli dello Spirito che ha trasfigurato il mondo pagano. E quindi i sette sono simbolo del mondo pagano. E quindi la visita a Gerusalemme non è solo una visita alla Chiesa Madre per sostenere la Chiesa Madre, ma è il mettere al cuore del cristianesimo una nuova visione di Chiesa, dove ebrei e gentili formano un unico popolo, che praticamente è anche il cuore di alcune delle lettere, sia della lettera ai Romani, sia della lettera agli Efesini, dove il muro di separazione tra ebrei e gentili è ormai superato. Quindi vedete, sei versetti, che è la prima parte del testo che questa sera vogliamo vedere insieme, però carichi già di messaggi, sembrava essere un elenco arido di città, però ci presenta la fotografia di un apostolo decisamente interessante, un apostolo che è un grande formatore, un apostolo che ha orizzonti molto ampi nel cuore, un apostolo che pone le fondamenta per una nuova visione di Chiesa, una Chiesa dove ebrei e gentili vivono insieme. Se prima questo era solo in un orizzonte di idealità, di obiettivi, ora Paolo, andando a Gerusalemme con sette persone diverse che provengono da queste chiese, che in queste chiese hanno contribuito alla raccolta della colletta e che le rappresentano, è il segno di una visione di Chiesa dove ebrei e gentili sono uniti nel portare l'unico messaggio. Bene, dopo questi sei versetti vediamo cosa succede mentre Paolo è costretto a ripartire da Corinto, a muoversi nuovamente via terra, quindi muovendosi nuovamente verso il nord e arrivando a Troade dove Paolo si ferma sette giorni. Leggiamo i versetti da 7 a 12. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo, che doveva partire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove eravamo riuniti. Ora un ragazzo di nome Eutico, seduto alla finestra, mentre Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo. Sopraffatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non vi turbate, è vivo!» Poi risalì, spezzò il pane, mangiò e dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Bene, prima del grande saluto agli anziani della comunità di Efeso, c'è questa esperienza. Allora, notiamo anche qua gli elementi che fanno da cornice. Si parla di sette giorni, si parla del primo giorno della settimana, si parla di questo episodio molto particolare che vede Paolo in una situazione un po' curiosa. Allora, tutti gli elementi che caratterizzano questo brano sembrano essere un velato annuncio della passione per l'Apostolo. Perché Paolo è dovuto partire per un complotto, primo annuncio. Arriva a Troade, c'è il mistero della morte e della risurrezione nella figura di questo Eutico che cade dalla finestra al terzo piano. Più avanti Paolo, prima di arrivare dagli anziani di Efeso, si sentirà ancora dire che praticamente il viaggio che si prepara davanti a sé sarà un viaggio segnato dal dolore e dal rifiuto. Una sorta di triplice annuncio della passione che sembra rievocare quello che il Signore ha vissuto su di sé nella narrazione evangelica, cioè in Paolo si ripropone quello che Gesù ha vissuto, proprio perché in Paolo si concretizza quel non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, che rappresenta una delle frasi più significative della lettera ai Galati. Non solo, questi versetti sono la testimonianza più antica in nostro possesso sulla celebrazione eucaristica della domenica, del primo giorno della settimana. La cosa è importante e emblematica perché se noi notiamo come veniva celebrata la domenica, ritroviamo quegli elementi che Luca ha condensato nei cosiddetti sommari, cioè nelle fotografie in cui presenta idealmente la prima comunità cristiana. Cosa notiamo di questi elementi celebrativi? Si nota prima di tutto il racconto formativo di Paolo. Paolo è l'unico che parla, anzi dà quasi l'impressione di parlare così tanto che alcune persone si addormentano, come Eutico, cadendo addirittura dalla finestra, quindi c'è l'elemento dell'insegnamento, della didache. La domenica è il giorno del Signore in cui si ascolta l'insegnamento degli Apostoli, l'abbondanza della parola di Dio, che è unità di Antico e Nuovo Testamento, della rilettura dell'Antico alla luce del Vangelo. Secondo elemento, lo spezzare il pane, la frazione del pane, l'Eucarestia, la celebrazione dell'Eucarestia. Terzo elemento, la comunità riunita, quindi l'elemento della coinonia. Quarto elemento, vivere su di sé il mistero pasquale. In quella notte la comunità vive la sofferenza che si manifesta nel dramma per Eutico, ma anche nel dramma che sta vivendo l'Apostolo Paolo, che vive su di sé il complotto. La morte, questo ragazzo che cade dal quarto piano, ma anche la minaccia di morte a cui Paolo è seriamente esposto. La vita, Paolo si stende sul corpo di Eutico, richiamando alcuni gesti degli antichi profeti, soprattutto di Eliseo, e restituisce la vita a Eutico. Tra l'altro qui Paolo, l'abbiamo già visto le altre volte, negli Atti degli Apostoli emerge sempre in modo chiaro questo parallelismo tra l'Apostolo Pietro e l'Apostolo Paolo, e i due compiono bene o male gli stessi gesti e tengono gli stessi racconti, ugualmente qui, cioè la risurrezione di Eutico è in parallelo con la risurrezione di Tabità da parte di Pietro, ci sono da parte di tutti e due dei miracoli di ritorno in vita dei discepoli che in qualche modo li ascoltano o li seguono o sono particolarmente significativi nella comunità. Quindi la domenica ruota attorno a questi quattro elementi: il mistero pasquale del Cristo, la frazione del pane, la coinonia e la didache, cioè l'insegnamento degli apostoli. Interessante, in questa testimonianza, che è la più antica testimonianza del giorno del Signore che noi abbiamo, già ci sono gli elementi che verranno poi fissati nella celebrazione eucaristica. Poi ci sono alcuni motivi simbolici. Motivi simbolici sono le lampade, che indicano il luogo del radunarsi come luogo di luce, di vita, quando la comunità è radunata attorno alla parola e all'Eucaristia, non può essere altro che un luogo di vita, se la parola e l'Eucaristia diventano il soggetto, importante questo, non è un inciso casuale, il soggetto del radunarsi, cioè la parola e l'Eucaristia non sono un oggetto che noi celebriamo, ma sono il soggetto del nostro celebrare. Quando noi la domenica andiamo in chiesa, non siamo noi i protagonisti che andiamo per prendere un po' di cosa, un po' dell'altra e poi ce ne torniamo noi. Cioè i protagonisti dovrebbero essere la parola e l'Eucaristia. È il Signore che ci convoca, è Lui che deve essere il protagonista e che bussa al nostro cuore per poter, come dire, entrare nel nostro cuore e poi uscire con noi ed essere il protagonista della nostra vita quotidiana. Oltre alle lampade, il secondo elemento simbolico è il piano superiore, e qui ricordiamo la sala alta, che era la sala dove si radunavano i dodici. La sala alta è la sala dove Elia ed Eliseo vengono ospitati e compiono i miracoli. Il piano superiore è il luogo della discesa dello Spirito, dove lo Spirito può continuare a compiere i suoi miracoli. E questo anche simbolicamente ricorda che la comunità cristiana è la comunità della sala alta, non del piano terra. E la comunità della sala alta è la comunità, prima di tutto, che ha lo sguardo rivolto al cielo e con i doni del cielo è invitata poi a scendere, perché non si può essere missionari stando nella sala alta. Dalla sala alta bisogna scendere. Ogni missione ha bisogno di questo movimento di abbassamento, di kenosi, che ci rende simili al Signore. Il primo passo che il Signore ha fatto qual è stato? Quello di scendere dalla sala alta verso la mangiatoia. Ha compiuto un processo di discesa, e questo è quello che viene chiesto ad ogni credente. Quindi vedete, seconda tappa di questo cammino, di questo percorso di Paolo, anche qua una tappa particolarmente significativa, perché in pochi elementi, in pochi dettagli, ci dice molto di più di questo che, di quello che potrebbe così ad un primo impatto emergere dal brano. Continuiamo con gli altri versetti, cioè i versetti da 13 a 16, dopodiché faremo un breve stacco musicale. Versetti 13 a 16 dicono così: noi che eravamo già partiti per nave facemmo vela per Asso, dove dovevamo prendere a bordo Paolo. Così infatti egli aveva deciso, intendendo fare il viaggio a piedi. Quando ci ebbe raggiunti ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpati da qui, il giorno dopo ci trovammo di fronte a Chio. L'indomani toccammo Samo e il giorno seguente giungemmo a Mileto. Paolo infatti aveva deciso di passare al largo di Efeso per evitare di subire ritardi nella provincia d'Asia. Gli premeva essere a Gerusalemme, se possibile, per il giorno della Pentecoste. Ecco, pochi versetti, anche pochi commenti, se vogliamo. Il quadro si conclude da un punto di vista di percorso narrativo. Ci vuole dire qual è l'obiettivo di Paolo e il sentimento che lo abita. Paolo ha fretta. Ha dovuto cambiare progetti, non è potuto andare per nave a Gerusalemme, il percorso si è allungato, però il suo obiettivo è arrivare a Gerusalemme per la festa della Pentecoste. Ecco, è interessante, la festa della Pentecoste era la festa delle primizie, ma era anche la festa che celebrava il dono della parola, il dono della Torah, e quindi attorno a questi elementi lui vuole fondare, se volete, questa nuova visione di comunità cristiana in modo concreto, visibile, molto più visibile rispetto a quelli che erano degli obiettivi ideali. Però il suo obiettivo è sempre quello poi da Gerusalemme di andare altrove. Lo Spirito Santo, come vedremo, disporrà poi le cose diversamente. Paolo pensa di arrivare a Pentecoste a Gerusalemme, di consegnare la colletta, di celebrare la festività e poi di rimettersi in viaggio. Le cose invece andranno molto diversamente, perché a Gerusalemme Paolo sarà arrestato, la prigionia si prolungherà per non poco tempo, resterà prigioniero per ben 2 anni a Cesarea e solo dopo il suo appellarsi all'imperatore inizierà il lungo e tormentato viaggio verso Roma, ma sempre come prigioniero. A Roma Paolo non resterà solo di passaggio, ma dovrà fermarsi per ben 2 anni agli arresti domiciliari e solo dopo che viene liberato potrà andare in quegli orizzonti all'estremo occidente dove avrebbe voluto arrivare 4 anni prima. Quindi vedete, l'uomo propone, Dio dispone, l'uomo pensa alla luce della libertà, ma Dio ha predisposto per Paolo un tempo lungo in catene che è un tempo, avremo modo di vederlo, di un'enorme fecondità. Paolo, lo notiamo dalle sue lettere, riesce quasi a fortificare di più le sue chiese, mentre è legato in catene, prigioniero o agli arresti domiciliari, che non quando può camminare liberamente da una comunità all'altra. E quindi qua notiamo come lo Spirito Santo sia davvero l'autentico, il reale protagonista dell'itinerario di Paolo. Bene, facciamo un breve stacco musicale prima di riprendere la nostra condivisione sul secondo aspetto che vi ho annunciato all'inizio della nostra puntata, all'inizio della nostra trasmissione, e vi suggerirei, mentre c'è lo stacco musicale, di rileggere questi 16 versetti, Atti 20:1-16, perché poi magari nel confronto tra di noi possono emergere altre cose. Quindi chiedo alla regia di mandare un breve stacco musicale e noi riprendiamo tra pochi minuti. Eccoci nuovamente dopo aver letto e commentato brevemente in modo essenziale questi 16 versetti del capitolo 20 degli Atti degli Apostoli. Ora, dicevo, in questa nostra puntata, visto anche il titolo della nostra trasmissione, La tua parola mi fa vivere, non potevo non dedicare qualche minuto a questa iniziativa voluta dal Santo Padre, Papa Francesco. Sapete che al numero 7 della lettera apostolica Misericordia et Misera, il Santo Padre invita la Chiesa Universale e le diocesi a scegliere, lascia libera la scelta della data, ma a scegliere una domenica durante l'anno da dedicare alla parola di Dio. Da dedicare alla parola di Dio non solo per leggerla, ma per riscoprirla proprio come soggetto del cammino cristiano. Quindi una parola da venerare, da celebrare, da leggere e da trasformare poi in vita. Ecco che sulla base di questo invito del Papa, due realtà ecclesiali che sono la famiglia paolina da un lato, cioè queste 10 istituzioni fondate dal Beato Giacomo Alberione a partire dal 1914 e la comunità di Sant'Egidio fondata da Andrea Riccardi, hanno proposto alla Chiesa in Italia e poi anche alle diverse comunità dove la comunità di Sant'Egidio e la famiglia paolina è presente, di dedicare la Domenica della Parola in una domenica del mese di settembre, possibilmente quella più vicina alla festa di San Girolamo. Quest'anno la domenica più vicina alla festa di San Girolamo nel mese di settembre, il 24, oppure quella più vicina il 1° di ottobre, ecco perché c'è questa duplicità di data. E diverse comunità cristiane, diverse diocesi in alcuni casi, hanno aderito a questa proposta in Italia, io conosco soprattutto la realtà italiana, decidendo di celebrare proprio la Domenica della Parola domenica prossima. Penso ad esempio alla diocesi di Vicenza. La diocesi di Vicenza ha abbracciato questa iniziativa e diverse sono le come dire, gli sviluppi che poi la proposta ha avuto all'interno della diocesi. Nella diocesi di Bergamo noi come comunità, ad esempio, siamo coinvolti in una parrocchia che è alle porte della città di Bergamo, proprio all'ingresso, la parrocchia dedicata alla Santa Croce e alla Malpensata di Bergamo, dove ci saranno tre giorni di celebrazioni dedicate alla parola di Dio, di ascolto della parola, anche di iniziative con i ragazzi, con la fascia più giovane della comunità. Ricordavo prima anche alcune case circondariali, posso ricordare anche la diocesi ad esempio di Alba, dove altre iniziative sono previste al suo interno. Ma che cosa significa vivere la Domenica della Parola? Soprattutto come viverla? C'è la possibilità di avere degli strumenti a disposizione? C'è la possibilità di avere delle indicazioni, dei suggerimenti? Certo, già a partire dal mese di luglio diversi materiali sono stati distribuiti, da libri con diversi suggerimenti, libri intendo materiali molto economici, con suggerimenti, segnalibri, cartoline, Bibbia doc, tanto materiale, ma al di là del materiale gli elementi importanti che vengono sottolineati sono gli obiettivi della Domenica della Parola. E quali sono questi obiettivi? Cioè seminare l'attenzione alla parola di Dio per avviare alcune esperienze all'interno delle singole comunità che permettano alla parola di Dio di essere protagonista del cammino comunitario. E allora, quali sono queste esperienze che potrebbero essere avviate? Prima esperienza è quella della lectio orante. In Misericordia et Misera Papa Francesco, alla fine dell'anno della misericordia, raccomanda tanto la lettura orante della parola, una lettura comunitaria che assume il volto della lectio divina, non solo su alcuni brani della misericordia, ma anche su i testi, ad esempio, che verranno poi celebrati nella liturgia della domenica. Ora, l'esperienza della lectio orante può essere un'esperienza che può cadenzare il mese di una comunità cristiana, può cadenzare i tempi forti, ma l'importante è che la parola sia sempre più vista come protagonista del cammino comunitario. Ecco, nel nostro decanato, nel decanato di Cinisello, le 7 parrocchie che lo compongono hanno fatto una scelta molto coraggiosa, quella di vivere questo appuntamento mensile di lettura orante della parola di Dio proprio in preparazione alla liturgia della domenica. E allora durante la lettura orante si prega la prima lettura. La domenica i diversi parroci, sacerdoti, commenteranno invece soprattutto il Vangelo. E poi nella settimana successiva i gruppi di ascolto della parola riprenderanno quanto hanno meditato sulla prima lettura, quanto hanno meditato sul Vangelo, facendone motivo di condivisione. Allora vedete, diventa quasi un cammino in 3 tappe, almeno una volta al mese, dove la lectio orante sulla prima lettura, la celebrazione con lo spezzare della parola sul Vangelo e il momento poi dei gruppi di ascolto diventa davvero un momento ricco, non improvvisato, ma dove la parola viene prima ascoltata, meditata, assimilata e poi condivisa, senza preoccuparsi di arrivare subito a rispondere alla domanda che cosa dice a me questa parola, cosa io devo fare. Non è tanto la preoccupazione cosa io devo fare, ma come accogliere questa parola. Poi è la parola dentro di me che preme. Quando uno accoglie la vita nel proprio grembo, e le donne ne sanno qualcosa, non è che deve dire cosa devo fare per farlo nascere. Certo, bisogna avere tutte le accortezze del caso, ma quando la vita è matura esce, quando il bambino è pronto esce, spinge lui, rompe lui ogni barriera pur di uscire alla vita, pur di essere generato. E così la parola dentro di noi, la nostra prima preoccupazione deve essere quella di accogliere, poi quando sarà matura la parola custodita, se non muore dentro di noi, la parola custodita genera. L'albero buono produce frutti buoni, non c'è niente da fare. Quindi prima preoccupazione è creare quindi situazioni in cui la parola possa essere accolta, possa diventare parole di vita dentro di noi. Secondo obiettivo della Domenica della Parola è sensibilizzare i cristiani, qui può essere una cosa comunitaria ma anche singola, dei soggetti, alla lettura continua della Bibbia. Guardate, noi siamo cristiani, a volte non abbiamo mai letto la scrittura, oppure la scrittura è un soprammobile, anche questo il Papa lo richiama più volte, no? Compiendo a volte anche dei gesti molto belli di distribuzione della parola di Dio, di distribuzione dei Vangeli. È importante almeno leggere una volta nella vita la Bibbia. E allora creare situazioni in cui magari una comunità cristiana dice: chi quest'anno si vuole lanciare in questa avventura? Iniziamo insieme. Allora una celebrazione, viene consegnata la Bibbia a questi che decidono di fare il cammino della lettura della Bibbia in un anno, seguendo uno schema che il parroco distribuisce a loro e che noi mettiamo proprio a disposizione, ma se ne trovano anche, se volete, online in alcuni siti seri, il percorso proprio di un cammino della parola di Dio distribuito in un anno. Poi ogni tanto, ogni 15 giorni, fare magari un punto di verifica per il rilancio, perché magari uno si stanca, no? Dire quali sono le fatiche, quali sono le gioie, cosa ha caratterizzato. Passa 20 minuti al giorno, non di più, 20 minuti al giorno. Cosa sono 20 minuti al giorno? 20 minuti al giorno. E prima che finisca l'anno, tutta la parola di Dio è stata letta, tutta la parola di Dio è stata letta. E ci si accorge di essere entrati, come dire, in un'altra tappa del cammino di fede. È come se si è in compagnia di molti altri amici che pensavamo, non pensavamo neanche che ci fossero, perché la parola di Dio è così, ci consegna l'esperienza di fede di tante generazioni. Quindi questo potrebbe essere, è un pochino la seconda sottolineatura che noi cerchiamo di fare in occasione della Domenica della Parola, no? Sensibilizzare alla lettura continua della Bibbia e vedere se all'interno della comunità cristiana può nascere qualcosa del genere. Terzo obiettivo, poi basta anche che una comunità cristiana ne prenda uno solo, però perlomeno è un cammino che inizia. Terzo obiettivo, la formazione dei lettori. Guardate, anche io durante, pur essendo religioso, noi abbiamo una missione che è molto diversa da quella dei parroci, noi ci dedichiamo all'annuncio del Vangelo attraverso il mondo della comunicazione. Però la domenica, il sabato e la domenica, anch'io svolgo un servizio pastorale in una delle parrocchie del milanese, no? E anche quando magari veniamo chiamati per aiutare un parroco o quell'altro, a volte si fanno delle esperienze molto curiose sui lettori. Cioè, chi programma la parola di Dio a volte ci accorgiamo che è poco preparato. E quindi dice una cosa per un'altra, fa una lettura di cui si capisce poco, magari già il testo è difficile, se uno poi lo legge male non si capisce proprio niente. Oppure c'è comunque un accostamento alla parola che già la deprezza all'inizio. Sapete, nella liturgia ambrosiana, prima di leggere la parola di Dio si chiede la benedizione. Questo già, come dire, richiama la sacralità del gesto che avviene. Nella liturgia romana questo non c'è. Quindi a volte si vedono cose del tipo: uno sale con il foglietto, legge dal foglietto, poi il foglietto non si sa dove va a finire, e questo non dice certamente la solidità della parola di Dio. Uno inizia a leggere in modo trasandato, in modo che non si capisce ciò che legge, e quelli giù, magari tra chi è sordo, chi non è sordo, non si capisce quello che viene detto. Questo sicuramente non dice la luminosità della parola. oppure Lambone spesso è un leggio traballante che non è nemmeno visibile all'interno della chiesa, per cui uno dice sì, non è una cosa tanto importante quando è traballante o non è visibile. Cioè, dietro chi legge non c'è solo una lettura, c'è un ministero, c'è un servizio alla comunità, c'è un dar voce a Dio che si rivela a noi nella parola di Dio. E quindi è molto importante avere tutta una certa attenzione prima di dedicarsi a questo. Non può essere improvvisato, perché non c'è nessuno, magari uno fa il segno dell'altare e vai tu al Lambone. Non è quello, è troppo poco, cioè la parola di Dio ha una sacralità che gli richiede rispetto, attenzione e anche cura. Pensate, nelle liturgie sinagogali, soprattutto quando si legge la Torah, cioè una parte del rotolo del Pentateuco, se uno leggendo sbaglia nella lettura, deve lasciare il posto della lettura, deve venire un altro e leggere dall'inizio. C'è niente da fare, perché lo sbaglio rende quasi impura quella lettura. Quindi c'è addirittura chi legge non può toccare con le dita il testo, ma c'è uno strumento apposito per tenere la riga. Cioè, tutto dice la sacralità di quel momento, di quell'atto liturgico, ma anche di quel testo, di quel libro, che non è un libro tra tanti. Allora anche noi abituarci a riscoprire il ministero del lettore, creare un gruppo, il gruppo dei lettori, che non solo ricevono il ministero, ma si preparano alla liturgia della parola, con una lezione del gruppo, che poi viene, si trasforma in ministero alla comunità. Allora cambia tutto, allora cambia tutto. Allora la parola è protagonista e non diventa un ministero improvvisato. Altro possibile obiettivo della Domenica della Parola: mettere la parola di Dio al centro, anche fisicamente, del nostro stare insieme. Allora dedicare alla parola di Dio, ad esempio, uno spazio all'interno della casa, uno spazio che abbia una sua dignità. Se una comunità, se una famiglia è una famiglia che è discepola di Cristo, cristiana, allora porre nella casa un luogo dove la parola di Dio è esposta. Va bene avere il Sacro Cuore esposto, va bene avere la Madonna di Lourdes esposta, la Madonna che scioglie i nodi esposta, ma la parola è quasi un sacramentale. Sia Benedetto XVI che Papa Francesco sottolineano la sacramentalità della parola. La parola aperta è il luogo in cui Dio si comunica, quando una comunità insieme la legge, la dona, la spezza, la condivide. E la famiglia che cos'è se non una chiesa domestica? Allora, avere la parola esposta diventa un richiamo, un invito alla lettura, un luogo della presenza, tanto più se vicino c'è un fiore, c'è un lume acceso con tutte le norme di sicurezza ben adottate. Però ecco, dice dove è centrato quel luogo. Si ospita qualcuno in casa, viene qualcuno a cena, è già un messaggio questo, senza dire tante cose. Nasce subito: ma perché? Ma come mai? Ma perché, cosa fate voi con quel? È già un invito a portare un annuncio. Un annuncio semplice, l'annuncio quotidiano, che è quello che è chiesto a ogni discepolo di Gesù. Ma non solo la centralità nella casa, pensate alla centralità nelle chiese. Adesso alcune comunità cristiane si abituano a questo, no? Quindi tu entri nelle chiese, vedi in fondo alla chiesa, proprio all'inizio dell'aula, al centro, un leggio solido con il lezionario, la Bibbia esposta, in modo che chi entra possa leggere, anche se magari non ha avuto il tempo o la possibilità o ha sbagliato orario, non è potuto venire a messa, però può nutrirsi almeno della parola di Dio. E questo è significativo, cioè porre nelle chiese un luogo dedicato alla parola di Dio. Pensate, il mio fondatore, il beato Giacomo Alberione, diceva questo già negli anni 20, alla fine degli anni 20, dove diceva, invitava a illuminare il luogo della parola come si illuminava il luogo dell'Eucarestia, a dare dignità al luogo della parola come si dava dignità al luogo dell'Eucarestia. E rimproverava le nostre suore, sapete perché? Perché distribuivano i Vangeli fuori della chiesa e loro dicevano, ma scusate, durante la messa dove viene distribuita l'Eucarestia? Dall'altare, perché si crede che Cristo è presente e ha trasfigurato quel pane. E voi perché date il Vangelo fuori dalla chiesa? Non credete che Cristo è nel Vangelo? Lui è parola viva, quindi va distribuito dall'altare, come si fa per l'Eucarestia. Immaginate voi, alla fine degli anni 20, lui diceva queste cose. E oggi noi stiamo riscoprendo, grazie al Concilio, grazie alla catechesi degli ultimi papi che ci hanno accompagnato in tutto questo, Benedetto XVI ha particolarmente insistito, Papa Francesco ha particolarmente insistito su questo, il ruolo forte della parola come luogo della presenza di Dio. E allora capite che in questo modo la parola diventa davvero soggetto del nostro cammino di fede. Ecco, spero con questi semplici esempi, questi obiettivi che ho condiviso con voi, farvi capire come la Domenica della Parola non è solo facciamo una domenica così di festa, ma è l'inizio di un cammino. Se non è l'inizio di un cammino è fine a se stessa e allora ciao, cioè non produce niente, ma la Domenica della Parola serve proprio per ricollocare al centro del nostro cammino di fede la sorgente da cui attingere. La nostra fede attinge da due sorgenti, parola ed Eucaristia, e quindi è da lì che dobbiamo ripartire, è su quello che dobbiamo camminare. Ecco, cari ascoltatori, questa sera mi sono dilungato un po' di più, ma volevo dedicare proprio questo spazio alla Domenica della Parola. Ora, dopo un breve spazio stacco musicale, lascio la parola a voi per le vostre domande, le vostre considerazioni, i vostri punti di riflessione sugli Atti degli Apostoli o su quanto ci siamo detti, in modo poi da rispondere o dare un mio feedback. Aspetto i vostri interventi e vi ringrazio fin d'ora per l'ascolto. Sì, pronto? Buonasera, con chi parlo? Buonasera, parla Giovanna da Verona. Grazie di tutte le illustrazioni che ci ha dato riguardo la Bibbia. Le volevo chiedere questo, mi può consigliare una Bibbia con la quale poter avere un approccio meno difficile di quello che sto avendo io con un librone enorme, che a un certo momento tutte le battaglie, tutte le lotte, tutte le località e tutti i nomi, cioè a un certo momento mi sono fermata e dico ho una grande confusione. Ecco, se c'è e se me la può consigliare, penso che allora avrò un approccio con la Bibbia con la quale desidero molto avere questo approccio, ma più facilitato. La ringrazio molto. Carissima Giovanna, la ringrazio per il suo intervento, perché sicuramente il suo intervento interpella, intercetta meglio anche la richiesta di diversi ascoltatori. Allora, dico due cose, cioè la questione non è tanto il testo della Bibbia, no? Perché la Bibbia in quanto tale ha ovviamente delle pagine che sono per noi di difficile lettura, ha delle pagine dove ci sono per dire degli elenchi lunghi, delle ritualità che a noi oggi sembrano dire proprio poco, delle guerre, perché si fa portavoce anche della mentalità dei popoli in cui certe pagine sono state scritte. Però ecco, l'elemento di difficoltà non sono tanto queste pagine, ma il leggerle da soli, cioè il leggerle senza delle chiavi di lettura. Allora, quello che è importante è fare una lettura che tenga conto della chiave di accesso. Per dire, uno può leggere il brano che noi stasera abbiamo commentato negli Atti degli Apostoli, quei 16 versetti, non cavandoci proprio niente, uno può leggere avendo delle chiavi di accesso. Allora, come fare in questi casi? La cosa principale è quella di procurarsi le chiavi di accesso, andare a comprare le chiavi. E allora individuare quella che può essere l'edizione della Bibbia che è più in sintonia con me come persona. Pensate, prima ho citato Don Giacomo Alberione, no? Don Giacomo Alberione nel 24 comincia a pubblicare i Vangeli cercando di declinarli secondo la tipologia delle persone, perché lui diceva: è vero che il Vangelo è accessibile a tutti, però un conto è la sensibilità che può avere un lavoratore, un conto è la sensibilità che può avere un giovane. E allora sono uscite queste edizioni che oggi a noi fanno sorridere, però rispondono a degli obiettivi che lui aveva. C'era il Vangelo dell'adolescente, il Vangelo della mamma lavoratrice, il Vangelo del lavoro, il Vangelo dell'insegnante, il Vangelo dei soldati. C'era le diverse tipologie di Vangelo, che non è che cambiavano la copertina e basta, no, le note erano diverse, perché offrivano alle diverse categorie di persone delle chiavi di lettura per accedere al testo. Allora, a lei Giovanna cosa propongo? Io le propongo non tanto un'edizione della Bibbia in sé, ma le dico questo: vada in una libreria cattolica, una libreria San Paolo, Paoline, dove ci sono dei consacrati, delle consacrate che hanno dedicato la vita a questa missione, non solo a vendere, ma alla missione di accompagnare il lettore, manifestando il suo desiderio, e loro le faranno vedere diverse tipologie di Bibbie che possono rispondere, cioè che le possono dare queste chiavi di accesso, in modo che lei non rinuncia alla bella avventura di leggere la Bibbia per intero, ma si accosta alle pagine difficili con la chiave di accesso. Ecco, una Bibbia che consiglierei è la Bibbia Via Verità e Vita. La vede caratterizzata a due marchi, quello della San Paolo e quello delle Paoline insieme, perché ha delle note accanto, delle note sotto, fatte in modo molto semplice, che permettono di avere questa chiave di lettura. Però, ecco, magari parlando con una sorella o un fratello all'interno di queste librerie, loro capiscono che magari la sua esigenza è diversa e le possono suggerire qualcosa d'altro. Ma è molto importante la domanda che lei ha fatto, e soprattutto la ringrazio perché dalla domanda emerge il suo desiderio di incontrare la parola di Dio, che è il dono più bello che il Signore può darle. Grazie di cuore Giovanna per il tuo intervento. Pronto? Buonasera, con chi parlo? Pronto, buonasera. Mi chiamo Elisa, chiamo dalla provincia di Vercelli. Mi dica. Buonasera. Senta, io ho, dunque, mutatis mutandis, ho più o meno le esigenze della signora che ha chiamato prima, ma in modo un po' diverso. Nel senso che lavoro, come capitato a molti di noi, parecchio lontano da casa. Diciamo che io ogni giorno devo spostarmi almeno di 100 chilometri per lavorare, da oltre 13 anni. Quindi io ho delle enormi difficoltà a inserirmi nella vita ecclesiale, perché non ho quasi una parrocchia, lavoro in tre città diverse. E quindi non si tratta di cristianesimo fai da te, ma si tratta proprio di una impossibilità oggettiva, logistica, di affrontare le letture, eccetera, nel contesto di un gruppo, come sarebbe ideale, io mi rendo conto. Quindi io che cosa faccio? Ho le letture del giorno sullo smartphone, ascolto la messa su Radio Maria, porto, siccome sono anche celiaca, porto sempre con me un'ostia da consacrare, dove trovo una messa compatibile con i miei orari, vado, però non riesco a fare di più, non riesco a fare di meglio. E quindi io mi chiedevo, a volte sono un po' sgomenta perché mi dico, ma forse rischio di uscire dal seminato, insomma, non che sia incline all'eresia o alle interpretazioni fantasiose, io sono stata cresciuta dai gesuiti, quindi un po' qualche dirittura, cioè, però io credo che questo sia un problema molto sentito. Io le chiederei di dare qualche indicazione ai poveretti come noi che non hanno una vita, diciamo così, stanziale, ecco, da potersi radicare in una comunità ecclesiale. L'ascolto per radio, la ringrazio. Cara Elisa, sa che ascoltandola ho provato un moto di gioia, un doppio moto di gioia, perché prima di tutto mi tornava in mente come immagine Paolo, no, quando arriva a Filippi e trova questa donna, Lidia, a cui il Signore apre il cuore proprio alla parola di Dio, che ha inventato questo luogo di culto, non so se Lidia o le altre donne che erano con lei, comunque Lidia emerge come la persona più intraprendente, lungo la via. E gli esegeti dicono, ma che strano, a Filippi una sinagoga che non ha le mura, ma si trova lungo la via, sul luogo del commercio, sul luogo del va e vieni. Eppure questa donna ha costruito la comunità sul luogo del va e vieni. E Paolo non annuncia la parola nella sinagoga quando arriva a Filippi, ma annuncia la parola in questo luogo del va e vieni di Lidia. E pensavo a lei, al suo viaggiare e comunque a lasciarsi accompagnare nel suo viaggiare dalla parola di Dio. Quindi il primo moto di gioia era l'associazione Elisa-Lidia. Secondo moto di gioia è la nostalgia che lei sente di una comunità. Ma vede, signora Elisa, lei la comunità ce l'ha la comunità, perché nel momento in cui nel suo cammino personale cerca di, prima di tutto, fatto salvo il fatto che oggettivamente ha questo problema, però cerca di avere un elemento di continuità. L'elemento di continuità qual è? È la comunità di Radio Maria. Anche noi, Radio Maria, siamo una comunità, è una parrocchia sui generis, che non è la parrocchia stanziale caratterizzata da mura, porte, da una figura unica di riferimento. Però sappiamo, per Paolo, le pietre vive sono le pietre dei credenti e ovviamente la comunità di Radio Maria ha anche un suo stile, un suo linguaggio, una sua madre, un suo modo di spezzare la parola, tiene a un cuore ampio, nel senso che è rappresentato da diverse figure di persone, e pensi alle sue catechesi, la sua lettura dell'oggi, il suo approfondimento della parola, come può essere questa trasmissione, il suo approfondimento delle questioni dell'attualità, nelle trasmissioni della sera, in quelle del mattino, insomma è parte di una comunità. E poi la cosa bella, permetta di dirlo, signora Elisa, il fatto che lei si lascia accompagnare dalla parola del giorno, e allora non è solo la comunità di Radio Maria, ma è la Chiesa di Dio, che insieme a lei quel giorno ascolta quella parola, medita quella parola, si lascia illuminare da quella parola, proprio come lei. Quindi le dico, se per motivi di lavoro proprio non può assicurare la continuità in una comunità cristiana, continui in questa strada, perché il Signore non può non benedire. Lei non è senza una comunità, ma è dentro la comunità, e con la comunità si lascia accompagnare dalla parola. Grazie della sua testimonianza. Pronto, buonasera, con chi parlo? Sono Angela. Mi dica, signora Angela, da dove chiama? Da Cagliari. Ascolti, volevo sapere che differenza c'è tra il Vangelo e le lettere di San Paolo. San Paolo, da dove attinge tutta questa sua non lo so come chiamarla, ispirazione o come si può chiamare, perché mi sembra molto più, a parte il Vangelo di San Giovanni, ma il resto mi sembra molto più profondo e molto San Paolo dei Vangeli, che sono, alle volte sono solo una descrizione, un racconto. Grazie signora Angela per la sua domanda, vediamo di rispondere, non, senza creare dei livelli di gradazione all'interno del Nuovo Testamento. Allora, prima di tutto va fatta una precisione interessante alla domanda della signora Angela, cari ascoltatori, perché ci fa capire come la formazione biblica ha bisogno da parte nostra di un pochino più di impegno. Da parte nostra intendo di noi sacerdoti nei confronti di voi fedeli. Allora, prima di tutto il Nuovo Testamento è composto di diverse parti. C'è la parte dei quattro Vangeli con gli Atti degli Apostoli che hanno come contenuto la storia del mistero pasquale, la storia di Gesù e la storia della prima comunità cristiana. Poi c'è il corpo delle lettere, dove ci sono non solo le lettere di Paolo, ma le lettere di Pietro, le lettere di Giovanni, lo scritto agli Ebrei. E poi c'è il testo che dà uno sguardo dal presente sul futuro, ma per consolare la Chiesa sulla terra, che è il testo dell'Apocalisse. Bene, le lettere di Paolo, ben 13, occupano una buona parte del Nuovo Testamento e costituiscono il nucleo più antico del Nuovo Testamento. Pensate che il testo più antico del Nuovo Testamento è la lettera che Paolo scrive ai Tessalonicesi, la prima lettera ai Tessalonicesi. Qual è la differenza tra le lettere di Paolo, dette in modo molto semplificato, si intende, però tra le lettere di Paolo e i Vangeli? I Vangeli ci consegnano la buona notizia di Gesù Cristo, la sua storia, cercando di metterci in contatto con la sua persona, i suoi insegnamenti e la grande opera che lui ha compiuto nei discepoli. Quindi è la narrazione da parte di testimoni diretti o comunque molto legati a Cristo della sua persona, in modo che noi possiamo incontrare il volto di Gesù. Le lettere di Paolo invece che cosa ci presentano? Prima di tutto ci presentano la testimonianza in prima persona di Paolo, cosa Paolo ha vissuto nell'incontro con Cristo, ma soprattutto come Paolo ha cercato di formare i primi credenti all'adesione a Cristo, le sue fatiche, i suoi punti di forza, le sue risorse, le opposizioni che ha incontrato. Praticamente noi in Paolo troviamo una narrazione che copre la sua storia, addirittura possiamo dire che nelle sue lettere viene coperto un periodo di tempo che si estende dai 20 anni in su, dipende un pochino da come vengono datate anche le lettere di Paolo, per cui noi leggendo le lettere scopriamo addirittura come quest'uomo sia maturato nel pensiero, era convinto di alcune cose all'inizio e poi le ha dovute cambiare, come anche il rapporto con la sua comunità ha cambiato. Quindi è davvero una grande risorsa all'interno del Nuovo Testamento, però San Paolo senza i Vangeli non ci permetterebbe di, da solo, faremmo fatica a capire quello che veramente è stato Gesù nel confronto con la prima comunità cristiana. Ci mancherebbe quella narrazione, se volete, che fa da sottofondo al nostro credere. Ecco, come dire, il criterio di lettura ce lo dà la liturgia della domenica. La liturgia in questo è davvero maestra di vita. Se voi notate, la parola che viene spezzata con noi la domenica ha un testo dell'Antico Testamento normalmente, un testo che appartiene all'ambito delle lettere e poi il Vangelo. Ecco, solo nell'intreccio di questi tre ambiti è possibile cogliere il mistero di fede che noi abbiamo, senza assolutizzare nessuno dei tre. I tre devono essere tenuti insieme, sono come quell'elemento di comunione che ci permette di camminare, di camminare, di camminare, illuminando la via del Padre, la via del Figlio e la via dello Spirito. È quel mistero trinitario di comunione che ci permette di camminare. Ecco, sono tuttavia contento, cara Angela, che lei sia così appassionata all'Apostolo Paolo. Se continuerà a leggere con passione l'Apostolo Paolo, vedrà che l'Apostolo Paolo lo mette non solo in ascolto dell'esperienza di Gesù narrata dai Vangeli, ma addirittura la spingerà ancora più in là, nella lettura e approfondimento di quell'Antico Testamento che prepara e illumina il Nuovo. Grazie di cuore, Angela, per il suo intervento e la sua domanda. Carissimi ascoltatori, siamo arrivati alla fine della nostra puntata e niente, volevo semplicemente ringraziare quanti di voi hanno avuto la pazienza di ascoltare queste nostre condivisioni e ringraziare in modo particolare i nostri cari ascoltatori che sono intervenuti, quindi Giovanna da Verona, Elisa da Vercelli, Angela da Cagliari. Ecco, permettetemi, oltre che salutarvi, anche chiedere su ciascuno di voi la benedizione di Dio. Quindi sostiamo un attimo e preghiamo. O Dio, che hai manifestato la tua verità e la tua carità nel Verbo fatto carne, rendici apostoli della parola e testimoni del tuo amore nel mondo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Su tutti voi che siete all'ascolto, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari ascoltatori, un caro saluto a tutti voi e buona serata a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.